Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Susanna Camusso, 61 anni, milanese, una carriera sindacale di grande successo. Per 20 anni dirigente della Fiommi in Lombardia, poi segretario generale dell'agroalimentare. Nel novembre del 2010 eletta con l'80% dei voti segretario generale della CGIL. Donna di grandi passioni e forti ideali, femminista storica, impegnata a difendere i diritti civili di tutti, anche di lesbiche, gay, bisessuali, transgender. Al momento della sua nomina, Guglielmo Epifani, il segretario generale uscente, di lei ha detto: Susanna ha grandi qualità di testa e di cuore. Ecco, Camusso, qualità di testa e di cuore, le è servita più la testa al cuore per resistere questi 3 anni in cui Renzi diceva, Camusso, che deve dover mettere il gettone nello smartphone per farlo funzionare? La testa e la voglia di cambiare. Senta, ma vi ignorava e da cosa è stato costretto a riscoprirvi Renzi? Dal fatto che comunque grandi sofferenze nel paese chiedono risposte. Senta, ma perché secondo lei per questo vi ha riscoperto? È perché non poteva continuare a ignorarle. Ma siete cambiati più voi o più lui? Difficile dirsi, credo tutti. Tutti e due. Senta, comunque qualcosa di importante adesso è cambiato tra la CGIL e il governo. La firma che avete messo sul verbale di sintesi è una cosa importante, eh? Certamente è la prima volta che si torna a dare alle pensioni, alla possibilità di pensionarsi rispetto al tanto tolto. Ecco, ma che differenza c'è tra un verbale di sintesi e un accordo? Che nel verbale di sintesi sono anche le differenze, quelle cose che non sono state condivise. Ancora risolte. E anche quelle ancora da fare, ma anche quelle non condivise. Ma quindi è una questione di linguaggio o di merito? Di no, merito? Sostanza. Sostanza. Ecco, i dati dell'occupazione sugli effetti del Job Act non sono incoraggianti. Quindi non eravate gufi quando lo dicevate? Abbiamo sempre detto che togliere diritti non dà occupazione. Ma se non eravate gufi, perché non avete fatto uno sciopero generale contro il Job Act? L'abbiamo fatto, 12 dicembre. Sì, non me lo ricordo. Pensi che effetto che ha fatto. Questo è uno dei problemi. Ma perché lo sciopero generale non è più uno strumento efficace? Perché c'è una sinistra europea che pensa che può ignorarli. Perché in effetti in Francia ne hanno fatti più di 6 in solo 2 mesi proprio sul Job Act alla francese. E però, poi è finita con la fiducia anche lì, con l'equivalente della fiducia anche lì. Quindi non è più uno strumento. È diciamo. Un tema di come si riconosce la rappresentanza dei soggetti da parte di chi governa. Senta Camusso, un giovane che ci ha telefonato ha detto: i sindacati non mi interessano perché non hanno mai fatto nulla per me. Cosa gli risponde? Che capisco perché lo pensa, anche se in realtà tante cose sono state fatte ed eredita un mondo in cui ci sono dei diritti anche per le tante lotte dei lavoratori. Senta, ma ci ha anche detto una cosa più amara ancora: nella vita non bisogna fare progetti, altrimenti ti cade il mondo addosso. Ecco, ai milioni di giovani disoccupati di oggi il mondo è caduto addosso per sempre, eh? È sicuramente caduto addosso per sempre, non possiamo permettercelo, quindi questo è il grande tema, come ricostruiamo un progetto per loro. Sì, però Camusso, la maggioranza dei vostri 5 milioni e mezzo di iscritti credo è fatta da quasi 3 milioni di pensionati. Come fate a dare risposte ai ragazzi se difendete solo i pensionati? Perché diamo per scontato che i pensionati sono solo egoisti? No, però insomma è diverso, naturalmente. Ma certamente, è frutto anche di battaglia politica, ovviamente, decidere che non esistono solo le questioni dei pensionati, però c'è una straordinaria generosità a partire dal loro fare i nonni. Questo per sicuramente, però lei lo scorso anno ha detto, ho letto, noi CGE dobbiamo mobilitarci perché il nostro primo orizzonte sono le pensioni. Se resta sempre la priorità, sti ragazzi un po' ci hanno ragione a dire. Una delle priorità è ridare anche a loro la possibilità di avere le pensioni. La fase 2 del verbale di sintesi prevede esattamente questo. Non è che le pensioni voglia dire coloro che sono già in pensioni, ma vuol dire... Però se 3 milioni di pensionati sono gli iscritti al CGIL, quella è la vostra identità prevalente. Quella è una grande forza organizzata, giustamente, ma è altrettanto vale che ci sono milioni di lavoratori attivi. Il problema è tutto quel mondo del lavorativo che non riusciamo a rappresentare. Questo è il tema. E perché non riuscite? Perché è frammentato, perché è disperso, perché forse non riusciamo a interpretarlo, perché forse siamo ancora organizzati in modo sbagliato. Ecco, ma i finanziamenti del sindacato quanto arrivano, quanto ammontano? I finanziamenti del sindacato sono le tessere e quindi i contributi che danno i lavoratori. E questo è il contributo del sindacato. Poi ci sono i patronati che hanno... Ecco, ma i patronati, cioè sulle pratiche che fate per le pensioni, no? Dei lavoratori dipendenti e autonomi, con una trattenuta mensile, quello a quanto ammonta? Ma quello dipende da quante pratiche facciamo riconosciute dal governo. Ma più o meno lo saprà, è il capo della CGIL. Purtroppo varia molto. Da a? Anche perché sono state tagliate. Ma tra quanto? Ormai una cifra grosso modo, oscillazione tra quanto? Ma sono per l'insieme di tutti i patronati, di tutte le organizzazioni, 280 milioni l'anno. 280 milioni. Senta, i pensionati adesso sono abbastanza soddisfatti delle scelte fatte dal DEF? Ma credo che sicuramente hanno registrato che per la prima volta hanno avuto dei risultati, poi c'era molta voglia di avere più risultati e quindi diciamo che c'è un equilibrio. Senta, ma le sembra una legge di stabilità più strategica o più elettorale? No, di strategico c'è ben poco, tant'è che i giovani non sono al centro. Allora sono elettorale? In gran parte sì. Sì? Lei voterà no al referendum? Sì. Ma è un ordine di scuderia per la CGIL? La CGIL ha detto quali sono le sue opinioni e ha anche detto che ognuno è libero di votare. E perché voi non aderite al comitato del no? Esattamente per questo. Ma mi dice la ragione principale per cui lei vota no? Perché penso che ci sia un pessimo equilibrio dei poteri alla fine della riforma. Quindi è meglio star fermi altri 30 anni in attesa di qualcosa di ma meglio? Ma lo star fermi non riguarda, questo è proprio un argomento che non capisco. Abbiamo tante cose da fare, la prima delle quali è la riforma del fisco. Abbiamo bisogno di cambiare la Costituzione per farla o bisogna scegliere di farla? Vabbè, però intanto adesso dobbiamo occuparci della riforma della Costituzione, sì o no a quello? Ma sì, appunto, ma non è che da lì è la catastrofe o piuttosto che l'impossibilità di fare. Però un passetto avanti magari c'è lì dentro. Nell'equilibrio complessivo no. Senta, comunque gli investimenti sono loro che creano il lavoro. In attesa dell'esito del referendum però si sono fermati gli investimenti. Teme una gelata se vince no oppure no? Ma contesterei che si sono fermati in attesa del referendum. Qui i dati, tra il 2007 e il 2015 gli investimenti fissi lordi privati sono diminuiti del 29,4%. Appunto sono fermati. Ma dal 2007 non è che eravamo in attesa del referendum, in realtà il sistema delle imprese italiane ha smesso da lungo tempo di investire trasferendo tutto sul spendiamo il meno possibile, facciamo low cost e riduciamo i costi. E come si rimette in moto questo? Che perché non la gente ha paura. Non compra, la crisi non è arrivata anche perché non si investiva più. Appunto, insomma, l'uovo e la gallina lì siamo. Insomma, la legge di stabilità nel suo complesso, lei come la giudica? Lo dico, manca progetto, manca l'idea che bisogna investire sull'occupazione, sui giovani, che bisogna dare una sferzata anche nel senso di mettere regole. L'operazione fatta di scaricare sui lavoratori di Equitalia delle responsabilità che derivano dalle leggi dello Stato non è un'operazione corretta. Ma è di buono cosa c'è? Qualcosa sì o no? Di buono c'è che si confermano una parte di investimenti pubblici, bisognerebbe farli crescere. Di buono c'è l'attuazione dell'accordo che abbiamo fatto sulla previdenza. Non c'è di buono sui contratti pubblici e poi ne parleremo di quello. E sulla contrattazione, insomma, l'equilibrio è un equilibrio deficitario. Vabbè, insomma, comunque vi riparlate, fate qualcosa insieme, passo avanti. Senta, Renzi, c'è qualcosa che le piace di Renzi? Beh, devo dire che per esempio la risposta che ha dato stamattina era fulminante e interessante. Cioè, quale non l'ho sentita? Rispetto all'Europa, dice l'infrazione facciamola ai paesi che non accolgono i migranti. Un'idea. È qualcosa che invece proprio non le piace? Tutto il resto? Idea a che parte stamattina tutto il resto? No, ma è l'idea che la rappresentanza non esista, che non c'è una condizione delle persone che dovrebbe essere il suo però scopo adesso fondamentale. Vi parla, quindi vuol dire che riconosce i corpi intermedi come rappresentanti di qualcosa. Beh, insomma, c'è ancora della strada da fare. Cioè, si può fare molta strada. Ma il piano nazionale dell'impresa 4.0 non le piace proprio? Non è vero, noi abbiamo dato un giudizio di grande interesse. Io distingo tra ciò che è la progettazione di quel piano, la partecipazione al lavoro di quel piano che abbiamo fatto come organizzazioni sindacali, col fatto che poi si traducono in forme che non hanno vincoli rispetto all'utilizzo delle imprese. Però se non si investe non si creano posti di lavoro, questo l'ha detto anche lei, siamo d'accordo su questo? Ma certo, è per questo che ci vogliono più investimenti pubblici di quello che si fanno, bisognerebbe fare meno bonus e più investimenti strutturali. Meglio quando c'era l'IRI? Sì, assolutamente sì. Servirebbero delle partecipazioni statali oggi? Assolutamente sì, l'industrializzazione di questo paese dal punto di vista della grande impresa l'ha fatto le partecipazioni statali, a quello mi riferisco ovviamente, non alla gestione, e le grandi nazioni concorrenti hanno sistemi di partecipazione molto forti. Senta cosa mi ha detto di lei invece delle sue posizioni l'altro giorno il ministro Calenda qua. Ma io sono rimasto veramente molto colpito, perché dentro la frase della Camusso c'è un disprezzo, io direi antropologico, verso l'imprenditore, come se l'imprenditore non fosse un pezzo di questa società, della nostra società, importantissimo perché crea crescita. Molto diverso dall'atteggiamento che abbiamo visto nella CISL e persino in Epifani, che è stato uno dei promotori di Industria 4.0. Quindi lei considera la Camusso fuori dal mondo sostanzialmente? Io considero questa frase della Camusso fuori dal mondo, ci riporta a epoche storiche che non ci piace rivedere. Allora, per essere chiari, con questi soldi che lei dice che sono tutti qua, torneranno i posti di lavoro? Torneranno gli investimenti e torneranno quindi i posti di lavoro e soprattutto tornerà una crescita di qualità che è fatta dalla competitività di lungo periodo. Senta, cosa dice per tornare nel mondo? Penso di non esserne mai uscita e penso che ci sia, come dire, una incapacità di valutare le cose che vengono dette. Il superammortamento, che noi abbiamo detto essere un'ottima norma, abbiamo chiesto che abbia dei vincoli, perché si può usarla bene o si può usarla male, come tutte le cose. E basta guardare gli spot che non facciamo noi, li fanno le case automobilistiche, che stanno tutti spiegando: utilizzate il superammortamento per cambiare la macchina. Forse non è quella l'idea di investimento. Vabbè, di loro fanno il loro mestiere, però. Ma certo che loro fanno il loro non mestiere. È il governo che fa gli spot, sono le case automobilistiche. È il governo che non mette vincoli per cui non sia chiaro cosa bisogna fare. Abbiamo bisogno di rinnovare. Cioè, lei ha paura che si rinnovano le macchine, si comprano i tablet ho paura, e basta? Io guardo i dati. Senta, però Epifani l'ha sentito, il suo predecessore è d'accordo con Calenda. Che effetto le fa? Ha cambiato casacca? Guardi, esistono tanti parlamentari che venivano da una storia sindacale che hanno votato il Job Act, quindi siamo abituati ad avere contraddizioni con la politica. Ah, quindi diciamo che Epifani proprio. No. Ma penso che ci sono dei ruoli. Io penso che una storia come quella sindacale uno non la possa mai dimenticare, ma invece evidentemente capita. Succede che in politica scattano degli altri meccanismi. Lei ha detto la politica ha delegato al sistema finanziario la decisione sulle nostre prospettive. Anche Di Battista ieri, l'altro giorno, a Politics ha detto le stesse cose. Quindi siete d'accordo? No, mi copia. Di Battista la copia, questo è carino. Senta, glielo chiedo perché lei ha anche detto: speriamo che l'ape non sia solo una vespa fastidiosa, cioè un regalo alle banche. È quello che teme? Temo un meccanismo che trasforma il sistema previdenziale, la certezza del sistema previdenziale in forme di prestiti, di derivati finanziari. Non hanno portato bene, quindi meglio rimanere nella solida tradizione. Senta, ma torniamo al progetto Industria 4.0, Camusso. Lo scambio meno diritti più lavoro in un momento di crisi può essere una risposta alla domanda dei giovani, di lavoro per i giovani? Non ha mai funzionato, basta vedere cosa sta succedendo con i voucher. Cioè in che senso dice? Cioè che ci sono. Cioè meno diritti uguale più lavoro per lei non è vero. Ma non è vero, ma lo dimostrano le cose. È la politica che si sta facendo da 10 anni e mi pare che le nostre risposte in termini di crescita siano invece drammatiche. Certo, quindi, perché gli mancano gli investimenti e quindi sono gli investimenti e non le leggi che fanno, i posti, di, i posti di lavoro. E non è vero che però gli investimenti si fanno se uno sente un clima e un contesto sufficientemente affidabile. È la terza legge di bilancio che il Presidente del Consiglio chiude la conferenza stampa dicendo: adesso tocca alle imprese. I dati glieli ho appena letti dell'andamento degli investimenti. Allora forse non funziona. Senta, ma detassare gli aumenti legati alla produttività. Produttività, aumenti, per lei è sbagliato, per lei? No, è una politica che stiamo cercando di fare da tanto tempo per allargare la contrattazione di secondo livello, però vorrei dire che oggi l'urgenza maggiore è che bisogna aumentare i salari, perché noi stiamo facendo una politica contro l'inflazione. Sì, ma i salari devono stare con la produttività anche, no? Hanno un rapporto con la produttività, i salari. Ma i salari già hanno un rapporto con la produttività, hanno un rapporto con la professionalità, hanno un rapporto con... Sì, vabbè, la produttività è allora, delle cose. Sono tanti i rapporti che allora, ci sono. Allora, mettiamola così. Però noi stiamo facendo una politica come se avessimo l'inflazione al 20%, siamo in deflazione, forse c'è qualcosa che non va. E che cosa bisognerebbe fare invece? E intanto bisognerebbe lavorare per aumentare un po' i salari, a partire da quelli pubblici che sono bloccati da tanti anni. Ecco, ma un'impresa in difficoltà come fa a pagare gli aumenti salariali se sono contratti a livello nazionale, li deve pagare perché il contratto è fatto a livello nazionale, però l'impresa va male, che si fa? Guardi che il tema non è la singola impresa dove ci sono problemi che abbiamo sempre affrontato con la contrattazione, sono tutti questi anni di crisi sono stati attraversati da grandi trattative per risolvere i problemi e affrontarli. Il tema è che si sta teorizzando che si può comprimere i salari dei lavoratori e quella è la leva su cui diminuisce i costi. Senta, Camusso, l'Espresso della scorsa settimana, di questa settimana, aveva una copertina fortissima. Chiuso per fine industria, diceva la copertina. Negli ultimi 25 anni le grandi aziende hanno perso 2/3 dei dipendenti, cioè il lavoro praticamente sta sparendo, obiettivamente. Ma non dovrebbe essere anche il vostro impegno numero uno cercare di dare una mano a ricrearlo? Ma non c'è dubbio, è una delle ragioni per cui continuiamo a proporre il piano del lavoro, il piano straordinario dell'occupazione giovanile, gli interventi sull'innovazione, la crescita della ricerca e sviluppo, credito d'imposta che ha recentemente fatto il ministro Calenda, una nostra proposta del 2007, convegno pubblico. Quindi vi ascoltano. Un po' in ritardo, ma come dire, diciamo così, non sono velocissimi, ma per cui da questo punto di vista non c'è dubbio. Ma c'è qualcosa che voi non avete capito in questi 25 anni per cui i giovani dicono sindacato chi se ne frega? Perché qualcosa ci sarà. La cosa che non abbiamo capito è che non è vero che si sarebbe chiusa una parentesi di precarietà e sarebbe tornati a tutti i rapporti di lavoro subordinati. Cioè è cambiato veramente il mondo. La trasformazione avrebbe globale, determinato la convivenza di tante cose differenti. Cioè questo è un problema che deriva inevitabilmente dalla globalizzazione. Ma deriva anche dai cambiamenti della tecnologia, dalle modalità appunto, che si possono fare. Deriva da tante cose. E voi siete stati in ritardo culturalmente rispetto dubbio. A questo. È una delle ragioni per cui abbiamo fatto la Carta dei diritti universali, è stata esattamente dire non ci basta ciò che avevamo nel passato o il ripristino di ciò che c'era nel passato, bisogna pensare inventare cose nuove. Una modalità nuova. Senta, ma intanto voi avete perso iscritti? Un po' sì. Molti? No, molti più no. Più o meno quanti? Un po' sì, meno di quello che la crisi abbia inciso dal punto di vista dell'occupazione. Adesso il dato finale di quest'anno ovviamente non ce l'ho. L'anno scorso abbiamo registrato una perdita intorno al 2%. Senta, dal 2004 a oggi sono stati fatti 32 scioperi generali nazionali. Torniamo allo sciopero. Di questi l'82% sono stati a ridosso del venerdì o del lunedì. Ma uno sciopero ponte, uno sciopero con ponte annesso. Ma so che questa è una polemica che c'è, in realtà c'è una ragione molto più banale, che la maggior parte di questi hanno avuto poi delle manifestazioni che per organizzarle hanno bisogno della possibilità di, se si viene a Roma per molti vuol dire due notti di viaggio, anche certo. Se si fanno regionali vuol dire ore di viaggio. E quindi sabato e domenica è devono essere in altro modo. Senta, ma lei personalmente a se stessa, alla Camusso segretaria generale della CGIL, cosa imputa di aver capito tardi e male? Che la nostra struttura organizzativa non funzionava per raggiungere quelli che non rappresentiamo. E che cosa ha fatto? Beh, abbiamo fatto un anno fa una conferenza d'organizzazione, abbiamo provato a invertire la tendenza centralista di nuovo verso il territorio, ridare valore. È difficile? Sì, molto. Molto. Le resistenze sono interne anche? Certamente. Senta, ma c'è un modello di relazione industriale a cui ispirarsi oggi nel mondo che cambia così velocemente? Ma io credo che il nostro sia uno dei più avanzati, quindi abbiamo bisogno di cambiarlo, ma non siamo in grado di copiare altri. Cioè non c'è un modello di riferimento. Schröder ha fatto la riforma del lavoro con i sindacati, per esempio in Germania. Ci vorrebbe un modello di relazione industriale. Io pensavo al rapporto con le associazioni di imprese. Parlavo proprio dal punto di vista complessivo. Dal punto di vista complessivo sicuramente il modello tedesco oggi è un modello di grandi relazioni. È favorevole insomma a, non dico copiarlo, ma insomma a ispirarsi. Sì, anche se poi magari poi abbiamo bisogno di soluzioni differenti, compreso che noi abbiamo una pluralità sindacale che la Germania non ha. Certo, e questa resta un problema o una ricchezza? Tutte e due, in qualche caso come in questo periodo è stato più un problema che una ricchezza. Non va d'accordo con la CISL, c'è niente da fare. Ma no, non è vero, abbiamo anche fatto cose importanti insieme. Insomma, anche per esempio poche. Abbiamo fatto la piattaforma sul modello contrattuale. Dov'è lo scontro più grosso con loro? Ma credo che sia proprio un'idea che c'è di rappresentanza generale dei lavoratori o di rappresentanza dei propri iscritti. Cioè non basta essere due donne a capo delle due associazioni per trovare dei punti d'accordo maggiori? No, credo, no, come no, sempre, non no. È che le donne sono omologhe, sono tante pluralità e diversità dire. Anche loro. Senta, parliamo un momento della riforma della pubblica amministrazione, a che punto siete in rapporto con la Madia? C'è un dialogo che c'è, che avanza, che non c'è, com'è? C'è un dialogo che continua ma non vediamo mai la concretizzazione. Ma avete sentito una disponibilità del ministro? Abbiamo visto molte dichiarazioni, però poi... Cioè, allora, per essere concreti, lei è d'accordo sul principio che tutti gli incarichi di vertice della pubblica amministrazione siano contendibili, cioè tutti possono concorrere e nessuno sia più inamovibile? È una cosa che condivide oppure no? È una cosa che condivido, peraltro i posti sono contendibili perché sono tutti oggetto di concorso. Quello che non condivido è l'idea che tutti sono uguali e possono dirigere qualunque cosa senza competenze. Ci sono anche dei luoghi dove le competenze fanno la differenza. Ecco, il governo però propone di dare di più a chi guadagna di meno. Lei è d'accordo su questo? È un'affermazione teorica che nessuno mette in discussione. Poi bisogna dire intanto quanto si dà, come, con quali criteri, cosa vuol dire chi guadagna di più, perché non vorrei scoprire che chi guadagna di più è l'infermiere, no? Senta, ma nella valutazione dei dipendenti siete d'accordo a non introdurre meccanismi di, diciamo, di distribuzione a pioggia dei premi, come è stato quasi sempre? È un tentativo che abbiamo già fatto. Io ricordo un accordo di un po' di anni fa in cui abbiamo concentrato sugli infermieri e su certe caratteristiche degli infermieri una parte del salario di secondo livello della pubblica amministrazione. Non siamo certo noi l'ostacolo è spesso che non abbiamo un'interlocuzione, perché la legge tende a sottrarre la possibilità. Ma voi avete proposte concrete su questo punto? Ma certo che abbiamo proposte concrete, compreso con delle proposte che sono differenti, perché se parlo di un ospedale, parlo della sanità, non sto parlando di un ministero. Certo. E quindi c'è un tema che riguarda la professionalità, la possibilità di mettere in relazione professionalità e organizzazione del lavoro. Ma allora facciamo un esempio concreto: il piano di mobilità del personale delle province, che è un problema. Malgrado le vostre proteste, che sono state forti, in qualche modo funziona. Che cosa non vi piace? Non ci piace l'incertezza istituzionale che ne è derivata, per cui le funzioni non si capisce dove sono andate, per cui i centri per l'impiego continuano a essere lavoratori precari e dovrebbero essere il centro delle politiche per l'attivo. La distribuzione del personale, insomma, comincia a funzionare? Beh, un po' funzionato, devo dire che da questo punto di vista tante amministrazioni regionali hanno dato una grande mano affinché funzionasse, però le incertezze sono molte. Sciolto un'istituzione, ce ne abbiamo due adesso. Però diciamo una cosa obiettivamente: c'è chi dice che volete semplicemente essere voi a decidere dove mandare la gente in mobilità per non perdere potere. È un'accusa che accetta? No. C'è un rischio che ci sia questa resistenza per il potere? Lei mi diceva prima, decentrando sul territorio è difficile anche per noi al nostro interno, si immagini se non è vero anche un però po' però le province sono di per sé sul territorio, quindi non è questo l'elemento. No, il tipo di resistenza è immaginabile che ci sia. Ma che chi da tanti anni fa un lavoro lo conosce abbia delle resistenze, ma questo è assolutamente evidente. Senta, ma che la burocrazia sia il cancro numero uno del paese è un'evidenza. La riforma Madia nel suo insieme, secondo lei, va nella direzione di creare un'amministrazione trasparente o sono solo parole o realtà? Alcune cose sono vere, penso ai processi di innovazione, di automazione, di rapporto diretto del cittadino, ma molte altre sono invece dei racconti, perché poi non si interviene nei gangli effettivi di organizzazione della pubblica amministrazione. È quello che gli diciamo da tempo, compreso quando parliamo della contrattazione. Se la legge prende materie e le trasforma in legge, irrigidisce, non rende flessibile ed efficace la contrattazione. Ma però lei, un po' di autocritica sui feudi che avete, grandi o piccoli, che fanno resistenza per ragioni di potere, lo ammette che c'è? Ma sono battaglie che abbiamo sempre fatto, qualche volta le battaglie si perdono. Lo dice a me. Senta, se il ministro Madia fosse qui, che cosa le chiederebbe di fare subito e voi sareste con lei? Di cambiare le norme che bloccano la contrattazione della legge Brunetta e le leggi che l'hanno sottratta, e quindi di decidere che davvero si contrattualizza il rapporto dei lavoratori pubblici. Cioè, di una cosa concreta? Che diventano come i lavoratori privati dal punto di vista della contrattazione. Cioè, gli offre questa disponibilità. Da tanto tempo che lo diciamo. Senta. Ma fanno l'opposto. Senta, quando avverrà, gli daremo le sue parole e diremo: vabbè, questa è la proposta della Camusso, vedetevela un po' voi. Senta, le faccio un'ultima domanda. Nel 2018 scade il suo mandato. Chi si immagina come successore? Beh, ciò che si immaginerà collettivamente la CGIL. Sì, vabbè, ok, ma insomma, Landini? Non farò mai nomi. Ma Landini, dica Landini. Non farò mai non nomi, dice sarebbe una violazione della libertà dell'organizzazione. Ma Camusso non potrebbe essere rinnovato? No. No, perché non vuole, perché non si può per statuto, non lo so. Non si può per le regole che abbiamo e credo che sarebbe sbagliato cambiare le regole. Ok. E allora la Camusso cosa farà da grande? Oh, tante cose che non ho potuto fare in questi anni. Vabbè, ma me ne dica una, perché tutti dicono tante cose e poi vanno in pensione e sono disperati. Mi dica. No, io penso proprio invece di andare in pensione quando raggiungerò, quando raggiungerò le condizioni. Ma che farà? Studio, leggo. Faccio di ciò conto. Che non ho potuto fare in questi anni. Vabbè, facciamo finta di crederci. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Mix 24. Mario, c'è un tuo conterraneo, Enzo da Carbonia. Da Carbonia, grande. Buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno Enzo, dica. Buongiorno. Forza Varisi. Di Aredus. E stavo dicendo che il problema è questo famoso diritto del lavoro. In effetti, in un sistema democratico e competitivo è un principio costituzionale, ma non è un diritto, perché se no mia figlia starebbe lavorando a 43 anni, certo. Invece è disoccupata. Cosa voglio dire? Che è inutile insistere con questo diritto. Il lavoro lo creano le imprese, voi lo avete detto e lo dicono tutti quanti. È così. Quindi in una società così altamente tecnologizzata come quella che abbiamo, siamo partiti dal famoso Ludwig. Sì, e allora dica. E allora io credo che l'unica strada possibile è quella di ridurre l'orario di lavoro, non a livello italiano, a livello europeo. Perché è inutile che noi immaginiamo di creare chissà quali posti di lavoro e poi, come dice la Camusso, con un reddito alto. Io credo che la strada in una società come quella... Insomma, lavorare tutto... meno per lavorare tutti, questo dice lei. Oggi siamo nelle condizioni d'accordo. Di poter affrontare questo problema. Va bene, grazie, grazie. Allora che dici della Camusso, Mario? No, dico al mio amico Sardo, voglio dire che in Francia hanno provato con le 35 ore. È andata male. È stato un disastro. Un disastro, sì. Ma la Camusso, secondo me, insomma, a me è piaciuta, ti dico... Ti dico... Sorprendente, liberista Mario. Mario, no, scusa, vista la manovra è più liberale lei del governo quasi, fa abbastanza impressione. Vabbè, titolo allora, brava Camusso. No, la liberale Camusso. La liberale Camusso. E tu liberiamoci dalla Camusso invece. No, io da Predappio sottoscrivo quello che ha detto: senza diritti non c'è occupazione. Vabbè. Però guarda che adesso poi sai, le parole spesso non corrispondono ai fatti, però sì. Quello che ha detto insomma, non è che io non lo sottoscriva. Canzone Pietrangelo. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. Far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. Allora, Pietrangelo? E allora i pezzi di solitudine sono come rami bagnati, ancora verdi, che sono intrisi di linfa, che è quella del dolore. E questo era quello che raccontava stamattina il controllore ai tornelli della metropolitana. Ed erano tutte facce annerite, occhi infiammati, preparavano il giorno. Insomma, ha chiamato Porfirio di Tiro, ha voluto questo brano per dedicarlo alla sua Marcella con un messaggio. La tua anima è il mio incendio. Mamma mia, capito? Questo è veramente fortunato, eh? Una donna così che gli incendia. Porfirio di Tiro. Tu lo sai come funziona, vero? Più dichiarazioni d'amore fai, sì, più loro ti faranno soffrire. E allora? Niente, allora? Niente dichiarazioni e d'amore. Allora dove andiamo grande noi? Grande distanza e gelo ci vuole. Dove andiamo noi, Mario? Con la realtà drammatica. Facciamo partire il REM, va. It's gonna stay. Reason it could polish up the grave. Ebbene, Radio Free Europe. Ci sta bene perché oggi si riunisce la BCE. Ora uno dice, vabbè, ma si riunisce sempre la BCE. Sì, è in continuazione, è vero. Si riunisce in continuazione, certo. Ci sarà una conferenza stampa di Mario Draghi, tutti in piedi. Cosa bisogna tenere d'occhio? C'è solo una domanda realmente interessante che dovrebbe riguardare molto anche la politica, ma sono impegnati a fare altro, evidentemente, almeno in Italia. e cioè che fine farà il quantitative easing, cioè il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE. Scade in marzo 2017, molti dicono sì, ma verrà rinnovato, eccetera, però attenzione, ci sono state... tutti questi soldi che sono in giro per il mondo, ma poi servono? Cioè, voglio dire, la crisi del lavoro è sempre peggiore. Ci sono quantità di soldi in giro per il mondo che non fanno investimento, Giovanni, non fanno posti di tassi lavoro. Tassi negativi. Negativi. Ma cioè, allora serve sto tassi negativi significa ti pago perché tu prendi a prestito soldi. Ho cioè, capito. Siamo a questo. Cioè, è servito per evitare un collasso. Ok, adesso. Per la crescita, no. E dicevo, ci sono state voci su un rallentamento. Do giusto una guida. Sì. È un fatto che i tedeschi non amino né Draghi né il suo piano espansivo. A destra e a sinistra in Germania vogliono dare un colpetto a Draghi. Quindi sarà interessante vedere se ci riescono, che cosa dicono. Vabbè. E naturalmente la storia dice che è tempo di tapering, cioè di taglio. L'economia dice che bisogna ancora continuare con questo programma. Siamo a un punto, secondo me, di quasi svolta su questa storia. Vabbè, vedremo dopo la riunione della BCE. In realtà questa riunione è importante. Scusa, il numero che riguarda gli italiani è 164 miliardi di euro di titoli di Stato italiani nella pancia della BCE. Questo. Beh, per fortuna che ci sono. Sì. Salamino! Alle 11:30 del mattino, come oggi, 20 ottobre nel 1944, nella scuola elementare Francesco Crispi, nel quartiere Gorla a Milano, i bambini della classe prima stanno imparando a scrivere la lettera Q di quadro. Alle 11:35 del mattino, come oggi, 20 ottobre nel 1944, 184 bambini e con loro le maestre, i maestri e l'intero personale di servizio vengono travolti e uccisi da 80 tonnellate di esplosivo. Adesso, in nome della misericordia e senza odio, nel silenzio tutto di vergogna che accompagna questo anniversario, è opportuno ricordare che perfino l'intitolazione della scuola riedificata è stata cancellata. Non si chiama più, infatti, Piccoli Martiri di Gorla. E non risulta che oggi, stamattina, il sindaco Beppe Sala sia lì con la sciarpa tricolore per accendere il ricordo di quella terribile mattina di guerra a Milano. Non c'era nessun motivo di scaricare bombe su una scuola elementare. Giustamente, abituati a piangere per tutti, non possiamo però piangere i nostri morti. Ancora quasi un secolo di distanza di quella mattina, come oggi, 20 ottobre, siamo ancora costretti a imparare la lettera Q di quadro, dove l'unico disegno contenuto è l'oblio. È così. Vabbè, abbiamo... da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole. È una notizia interessante, un po' di quelle che ti dovrebbero far pensare. Allora, voi sapete che è stata siglata una pace per facilitare un corridoio umanitario ad Aleppo, no? Sì. Sono stati accusati i russi di tutto, probabilmente hanno fatto molto bene. Notizia di adesso: i terroristi hanno aperto il fuoco sul corridoio umanitario nella zona di Bustan al-Ksar a Aleppo con mortai e armi di piccolo calibro. Io non aggiungerei altro. No, beh, insomma, mi pare molto chiaro, no? Lì è un massacro da tutte le parti. I fatti. Non esistono i buoni e i cattivi a senso unico in questa storia qua. Bisogna stare molto attenti. Molto attenti. Me. Senti, c'è una bolla? Sì. Hanno messo Woody Guthrie, capisci? This land is my land, from California to the New York Island. Mamma mia, vabbè, questo è il cuore degli Stati Uniti. Allora, voglio prendere le elezioni americane. Avete visto il dibattito stanotte? Voi no? No, stamattina no. Degli stralci. Sì. Tu, Pietrangelo, hai visto qualcosa? No, no, no. Ma tu l'hai visto? Sì, un pezzettino. Tanto non ha vinto nessuno. Come viene raccontato. No, ma non ha vinto nessuno. Era una roba. Si sono un po' insultati e basta. Sì, neanche stretti la mano. Quello ha detto. Vabbè. Però la cosa interessante è questa. Gigino Di Maio ha detto che non si esprime sulla corsa alla Casa Bianca perché, per bacco, non vuole influenzare le elezioni. Americano. Ah beh, almeno lui. Allora, tu immagini, a Dallas stanno valutando con grande attenzione, in effetti, prima di andare a votare, la linea dei 5 Stelle. Magari. Comunque, vabbè, Di Maio non influenza le elezioni americane, noi siamo tutti felici. Barack Obama dice che invece vota sì al referendum costituzionale. È così, influenza, prova influenza. Influenza, eh? E in questo gioco di influencer è strepitoso, lo strepitoso Donald Trump, che proprio sta su un altro pianeta, e ha detto nel terzo e ultimo dibattito di stanotte, ha detto che lui non riconoscerà mai l'eventuale vittoria di Hillary Clinton. Quindi il problema è risolto. Le elezioni americane non ci sono mai state, in ogni caso, quindi cosa volete? Canzoniere! Iddio vi salvi, benigni auditori. Quando par che dipenda questa benignità, dallo esser grato. Se voi seguite di non far rumori, noi vogliamo che si intenda un nuovo caso in questa terra nato. Vedete l'apparato quale orvi si dimostra. Questa è Firenze vostra. Un'altra volta sarà Roma o Pisa. Cosa da smascellarsi dalle risa. Ecco. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS che vuoi fare, l'aiutino? Aiutino. Allora, dai. Dopo il travolgente successo dei medici, è un altro fiorentino che dovrebbe riguardare molto le vicende di Renzi, se lo capisse. Bene, allora più aiutino di questo, non so, è un classico. Va bene, allora pubblicità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Mix 24. Il 20 ottobre del 2011, 5 anni fa, le truppe dei ribelli libici uccidono Muammar Gheddafi. Si nascondeva a Sirte, la sua città natale, dove era nato 69 anni prima e dalla quale era partito alla conquista del potere. Se io fossi al potere sarei già finito da molto tempo. Io non sono al potere. Il potere l'ho consegnato al popolo libico nel 1977. Il primo settembre del 69 Gheddafi annuncia la rivoluzione. Nel nome di Dio il compassionevole, il misericordioso, o grande popolo libico! D'ora in avanti la Libia sarà considerata una libera repubblica sovrana. Porterà il nome di Repubblica Araba Libica. Ci siamo impossessati del potere per realizzare appunto questo cambiamento storico. Non si tratta di un colpo di Stato, ma di una rivoluzione. Negli anni 70 la cacciata degli italiani dalla Libia e la lotta ai nemici interni. Poi la lunga scia di attentati terroristici che portano la sua ombra ne mettono in crisi la reputazione sulla scena internazionale. Lotteremo, sconfiggeremo tutti, come abbiamo fatto con il colonialismo italiano. Ecco la forza che non può essere sconfitta. La forza del popolo, la forza delle masse. Amato e odiato, contrastato e poi riabilitato, resta a capo del suo paese, la Libia, per 42 anni, per poi morire nella stessa città da dove tutto era partito. Dunque, dopo il giornale radio, la storia di Gheddafi e della Libia, dalla presa del potere fino alla morte, il 20 ottobre di 5 anni fa. Intanto abbiamo Giovanni da Carbonia, siamo sempre lì, caro Mario. Un altro. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Ci dica tutto. Cerco di essere gentilissimo, di trattarla con calma, perché mi dicono che io taglio quelli che telefonano, invece mi spingo la sintesi. Comunque diranno. Esatto, sempre. Bravo. Dove trattarsi? Anzi, si tratta della Mandragola di Niccolò Machiavelli. Perfetto, bravissimo. Complimenti. Mario, c'è ancora una bolla? Vedi, no, non c'è più niente. Non c'è più niente. Come no? Io c'ho una storia meravigliosa. No, niente, non abbiamo più tempo. Andiamo a Bernabei che ci commenta le notizie più importanti di medicina. Bernabei. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Surgery, giugno 2016. Fragilità e mortalità postoperatoria negli anziani. L'aumento della popolazione di anziani ci ha abituato a sentire sempre di più una parola che siamo abituati a collegare alle scatole di cartone che contengono materiale, e la parola è fragile. Essere anziani o averci tanti anziani ci ha insegnato che c'è una condizione che è prima e qualche volta addirittura indipendente dalle malattie, che si chiama fragilità, ma che è quel momento, quegli anni o quei mesi di vita, in genere dopo i 70 anni, dove la persona è fragile, nel senso che è facilmente turbabile da qualsiasi evento negativo esterno o interno. E allora è evidente che se si è fragili, quando questo evento esterno è un intervento chirurgico, è molto facile che questo evento precipiti la condizione, passando dalla fragilità alla malattia, alla disabilità. E allora si è visto in uno studio di popolazione canadese, di quantificare il rischio in termini di mortalità in chi è fragile, a seconda poi degli interventi a cui si veniva sottoposti. Sono stati studiati 200.000 pazienti, il 3% era fragile perché malnutrito, aveva perdita di peso, disturbi del camminare, cadute, incontinenza o demenza. E chi è che era fragile e veniva sottoposto a intervento chirurgico moriva molto di più, 14% contro 5%, soprattutto nei giorni immediatamente successivi all'intervento. Quindi bisogna valutare prima dell'intervento chirurgico, soprattutto se elettivo, se uno è fragile, perché è meglio allora curare la fragilità, cercare di rinforzarsi, perché sennò il rischio dell'intervento, come abbiamo detto, è elevato. E poi vediamo quali sono gli interventi che colpiscono di più. Protesi di ginocchio, 4% di rischio di morte contro 1% se uno è fragile. Protesi di anca, 9 contro 2%. Chirurgia addominale maggiore, 21% contro 10. Bypass delle arterie periferiche, 24% contro 12%. Gastrectomia, addirittura 43% contro 21%. Quindi la fragilità non deve essere più una parola, ma deve essere una condizione che il vostro medico studia in modo tale da sottoporvi poi a eventuali procedure chirurgiche nella condizione migliore. Ecco, dato che ce lo chiedete in molti, vi ricordo che tutti gli interventi del professor Bernabei sono disponibili sul sito di Radio 24, nelle pagine di Mix 24, alla sezione Extra. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone oggi? Oggi una canzone per chi si nasconde tra gli abbracci e i baci, unisce i corpi mentre fuori la battaglia uccide. Baustelle, Lili Marlene. Facciamo l'amore, sentiamo sparare voci che gridano il nome di Allah. Il fiato si gela col freddo che fa.